Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'ultimo giorno della settimana che passiamo assieme, ovviamente per questa settimana, tra le 19 e le 20 tutti i giorni su Rock FM, questa eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, indirizzo di mail con il quale potete iscrivervi alla lista nera di questa trasmissione e ricevere la playlist che si è allungata in maniera mostruosa. Sono 3 pagine piene di informazioni relative a canzoni, film e libri che compongono Eclettica. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore, di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri, no, non voglio vedere la televisione, alza la voce se non ti sentono, sto leggendo, non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso, dillo più forte, grida, sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. Se non vuoi non dirlo, speriamo che ti lasciano in pace. Questo era l'incipit di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Eppure, non so se anche a voi, ma a me ricorda qualcosa. scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Eh sì. Stop, stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no! No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde. No, lei deve dire no! Scusi, lei non cambierebbe 1.000 lire delle sue con 2.000 delle mie, sì? Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità. Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille? Basta, stia zitto, dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo! Che si questa sta... Qu'est-ce que c'est quoi c'est toi? Qu'est-ce que c'est quoi c'est ça? What time is space now? What time is space? Qu'est-ce que c'est que c'est une émeute? Early Years e Young Gods sono i due primi gruppi che ci siamo ascoltati quest'oggi all'interno di Eclettica, un inizio ritmato che mantiene questo ritmo ancora perlomeno per un brano, poi vedremo che cosa l'estro mi detta. Vediamo di proseguire con un gruppo tedesco che conosciamo con un brano bello cupo dal titolo Wanderlust, avete capito, sto parlando dei due Urlaub in Polen che provengono da Colonia. Il brano che ho scelto quest'oggi però è diverso, infatti ha un titolo che fra l'altro a noi suona familiare, si chiama La Gallina. You. come epigrafi di un alfabeto indecifrabile, di cui metà delle lettere sono state cancellate dallo smeriglio del vento carico di sabbia, così voi resterete profumerie per l'uomo futuro senza naso. Ancora ci aprirete le porte a vetri silenziose, attutirete i nostri passi sui tappeti, ci accoglierete nel vostro spazio da scrigno, senza spigoli, tra le rivestiture di legno laccato delle pareti. Ancora commesse e padrone colorate e carnose come fiori artificiali ci sfioreranno con le tonde braccia armate di spruzzatori o con l'orlo della gonna tendendosi sulla punta dei piedi in cima agli sgabelli. Ma i flaconi, le boccette, le ampolle dai tappi di vetro cuspidati o sfaccettati continueranno invano a intrecciare da uno scaffale all'altro la loro rete di accordi, consonanze, dissonanze, contrappunti, modulazioni, progressioni. Le nostre sorde narici non coglieranno più le note della gamma. Gli aromi muschiati non si distingueranno dai cedrini, l'ambra e la reseda, il bergamotto e il benzoino saranno muti, sigillati nel calmo sonno dei flaconi. Questo era l'incipit di Sotto il sole giaguaro, di Italo Calvino. Where I must be, where pronto? Sì, pronto. Motore. Partito. Chuck, azione. Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio. Trovatene uno più cretino. Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi. Scegliendo la playlist di Eclettica puoi trovare sempre il dettaglio di tutti i brani che ascolti in trasmissione, come quello due brani fa, per esempio dei White Magic, o quello che sta per chiudere questa parte di Eclettica a nome Ian Archer. Io spendo invece qualche parola su quanto ho appena ascoltato da parte della band belga di nome The Go Find, una nuova pubblicazione da parte della More Music, un album per la band belga della città di Anversa per la precisione, dal titolo Stars on the Wall, dal quale ci siamo ascoltati il brano dal titolo Dictionary.